Oggi ci spostiamo fino a Roma per il ritorno di Bande Femme 2023, il festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla libreria Tuba. Io do il benvenuto a Marta Capesciotti, una delle organizzatrici appunto del festival. Benvenuta ai nostri microfoni, Marta. Ciao, grazie a voi per averci invitato. Allora, c'è stata un'anteprima già il 1 luglio, ma questo giovedì 6 si inizia, diciamo, veramente il festival, si apre veramente questa nuova edizione del festival. Ti volevo chiedere come si apre e come si inizia. Allora, innanzitutto questa è la 10ª edizione del festival, questo ci teniamo a sottolinearlo, ci rende molto orgogliose, felici di essere arrivati alla 10ª edizione. Anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, non era scontato, insomma, nonostante tutti gli imprevisti abbiamo ufficialmente aperto le danze, come appunto dicevi tu poco fa. Sabato scorso c'è stato il vernissage delle mostre della Notte a Colori, quindi abbiamo, diciamo, organizzato queste 13 mostre in 12 spazi, di cui una appunto è la libreria Tuba al Pigneto, che organizza il festival, e quindi abbiamo diciamo anche quest'anno proposto questa passeggiata in vari spazi del quartiere che hanno ospitato tante artiste anche quest'anno, da varie parti del mondo, da varie parti d'Italia, e quindi si è creato questo serpentone di persone in giro per il quartiere. Però appunto il clou del festival deve ancora arrivare. Le giornate delle presentazioni saranno giovedì 6 luglio, venerdì 7 luglio e chiuderemo sabato 8, con un programma che è abbastanza fitto, pieno di incontri in cui presenteremo fumetti, in cui parleremo del lavoro di alcuni artiste, ci saranno dei live painting, uno ogni sera in conclusione della serata, ma ci saranno anche dei format un po' inediti. Abbiamo appunto una tavola rotonda sulle autoproduzioni, in cui metteremo insieme una serie di persone, di artiste che stanno utilizzando la fanzine e l'autoproduzione come strumento di espressione. Avremo appunto le tavole narranti, diciamo un disegno dal vivo ai tavoli di Tuba sui temi dell'ecofemminismo. Avremo un aperitivo di scambio e condivisione tra artisti questo venerdì alle 18, insomma tutto un programma da esplorare, perché ci sono vari momenti anche molto, molto diversi per attraversare il festival e scoprire tante cose nuove in realtà. Ecco, ti volevo chiedere una battuta in più proprio su uno dei workshop, diciamo, che hai citato tu, ovvero tavole narranti, che mi sembra anche una delle novità di questa edizione. È una novità di questa edizione, sarà innanzitutto per darci delle coordinate temporali: sabato 8 luglio alle 16:30, appunto da Tuba, e nasce da una collaborazione tra Tuba, quindi il Festival Bande Femme, e l'associazione A Sud. Abbiamo invitato che è un'associazione, diciamo, attiva da moltissimi anni a Roma, ma non solo, sui temi appunto dell'ambientalismo, dell'ecologia, anche di conflitti ambientali. E abbiamo invitato tre amiche, che sono appunto Frad Sonno e Claudia Palmarucci, a disegnare dal vivo su quarti removibili, che poi sono appunto tavoli di Tuba stessi, alcune pratiche, insomma disegni di pratiche ecofemministe. Disegni ispirati da letture che ci saranno dal vivo, insomma dalle parole appunto pronunciate da alcune attiviste di Assud proprio mentre le artiste disegnano. Quindi sì, è una cosa che ci siamo inventate quest'anno un po' anche per portare a compimento, anzi nutrire, questa collaborazione con Assud sui temi dell'ecofemminismo. Grazie Marta innanzitutto per questa spiegazione, insomma, perché ero molto molto curiosa. Poi torneranno anche tra virgolette vecchi incontri, come vedo eccentriche oppure anche matite esordienti, quindi insomma portate anche avanti cose da, insomma, da 10 anni del festival, possiamo dire. Sì, diciamo che alcuni format di incontro rimangono sempre gli stessi. Tra l'altro siamo veramente felici quest'anno di avere molti fumetti esordienti, quindi il gruppo di matite esordienti in realtà è abbastanza nutrito. Ci sono dei fumetti delle graphic novel nuove molto, molto belli, alcuni altri format insomma già li conosciamo, appunto Matite fuori dai cardini, dialoghi d'autrici, e quest'anno ci siamo inventati anche un format nuovo che si chiama Scenografiche, che è praticamente uno spazio per raccontare il lavoro artistico di artisti e artiste che incrociamo e che ci piace particolarmente ospitare sul palco di Bande Fam. Quest'anno appunto l'appuntamento di scenografica, diciamo l'appuntamento che inaugura questo filone di scenografica, sarà l'incontro con Francis Cannon, che è questo artista non binario australiano, che ha curato anche una mostra allo studio Gomma a Via Dulceri, quindi che sarà visitabile per tutti i giorni del festival, e che parlerà con Lorenza Accardo, che è insomma una nostra compagna nonché curatrice del Festival Short Theater, giovedì 6 luglio. Perfetto Marta, grazie mille per averci raccontato qualcosa di più su questa 3 giorni di festival. Per rimanere sempre sintonizzate con tutto il programma, immagino canali social e anche il vostro sito. Ah, cioè innanzitutto il sito di Bande Fam sicuramente, e poi ovviamente i canali social di Bande Fam su Facebook, di Tuba su Facebook e anche di Tuba su Instagram.